Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Naturalmente oggi non potevamo non parlare di mercati finanziari perché siamo in attesa di questo super vertice previsto per domani del Consiglio europeo che dovrebbe ratificare tutte le misure decise nel fine settimana scorso per aggredire questa devastante crisi del debito dell'Eurozona. Ieri, dopo i vertici, appunto, le riunioni fiume del fine settimana, le borse hanno avuto un andamento difficile nel corso della mattinata, poi hanno chiuso positivamente, spinte anche da Wall Street, che ha avuto un atteggiamento incoraggiante, pesante. Pensate che stamattina ho fatto un po' un monitoraggio sull'andamento delle borse dall'inizio dell'anno e ho scoperto che Wall Street è positiva, il Dow Jones dall'inizio di gennaio appunto ha un andamento positivo per il 2%, so che è poca cosa, ma se tenete conto che tutte le altre piazze internazionali perdono tra il 10 e il 20%, in particolar modo le europee, ci sembra appunto un dato assolutamente da mettere in evidenza. Stamattina è un po' più piatta la situazione, quindi proprio c'è tutta la sensazione che sia una giornata di attesa. Poi piatta relativamente, è ancora oggi contrastata. Parigi è in difficoltà, perde lo 0,4%, Francoforte è positiva di mezzo punto, Londra metà strada più 0,26%, Milano meno 0,32%. Peraltro a Milano c'è un caso, quello di STM, che sprofonda del 7% dopo la trimestrale. Forse se STM avesse perso meno, magari anche il FTSE MIB oggi si sarebbe salvato dalle vendite. In ogni caso, appunto, c'è un meno 0,3% su Milano, quindi ci possiamo anche accontentare se consideriamo che siamo i grandi osservati speciali di queste ore. Il governo ha presentato il suo pacchetto di stimolo per la crescita economica, con questa discussione pesantissima e questa non trovata soluzione relativamente alla riforma delle pensioni, e quindi con questo piatto incompleto, con questa ricetta per la crescita incompleta. Domani Berlusconi si presenterà appunto al Consiglio europeo, chissà se i partner dell'Eurozona si accontenteranno o se questa ricetta invece sarà corredata ancora una volta da ghigni divertiti appunto e risate sarcastiche da parte degli altri leader europei. Detto questo, appunto, vi ho dato le performance della borsa. L'euro sul dollaro è 1,39,38. Oggi sarà un'altra giornata molto interessante per Wall Street, perché là appunto proseguono anche gli appuntamenti con le trimestrali e tutto sommato sono i risultati incoraggianti quelli che stanno presentando le società americane. Oggi tocca a 3M ed Amazon, e poi magari, se nel corso della puntata avremo il tempo per farlo, commenteremo anche i risultati delle altre big di Corporate America per capire appunto chi se la passa bene e chi invece non è particolarmente bene. Ma in ogni caso il mercato americano, come vi dicevo, ha un andamento incoraggiante. Vi ho detto che sono i peggiori titoli di Piazza Affari, anzi il peggiore, gli altri: Ansaldo meno 2, Unicredit meno 1,51, Mediaset meno 1,48, mentre in positivo abbiamo stamattina l'Automatica, che sta guadagnando 4 punti percentuali. C'è un giudizio positivo degli analisti di Credit Suisse, e poi abbiamo Tenaris più 1,73, Generali e Fondiaria guadagnano 1,5, quindi vedo bene il settore assicurativo, Saipem più 1,35, Petroliferi bene perché il petrolio è tornato a crescere sui $91 al barile a New York, e poi Parmalat più 0,6, Fiat SPA più 0,57%. Questi sono i temi del giorno, ma per dare così uno sguardo un po' più ad ampio raggio sui mercati, due ospiti naturalmente con noi questa mattina: Alessandro Capuano, responsabile di IG Markets Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Questa è una società abbastanza particolare perché è un gruppo leader nei cosiddetti CDF, i contratti per differenza, quindi prodotti derivati abbastanza sofisticati, anche se forse da qualche tempo hanno trovato un po' più diffusione tra il pubblico dei piccoli risparmiatori. E poi saluto Fabrizio Pasta, direttore generale di UBS Italia SIM. Dottor Pasta, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi ho avuto veramente l'idea azzeccatissima di chiamare questi due ospiti in giornate molto complicate per loro, perché Capuano è nel pieno dei preparativi della partecipazione di IG Markets al TOL, che è il Trading Online Expo che organizza la Borsa Italiana nei prossimi giorni, mentre il dottor Pasta oggi ha avuto la brillante idea di chiamarlo con la presentazione della trimestrale del gruppo. Dottor Pasta, quindi anche per me è una giornata frenetica, però non parleremo di questo, la volevo subito rassicurare. Perfetto. Volevo solo avere, comincio con lei, allora per darle il benvenuto, visto che Alessandro Capuano è già venuto in trasmissione da noi, per lei invece è la prima volta, le chiedo un po' così, un commento a caldo rispetto a queste giornate che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo sui mercati, per essere completamente tranquillizzato, il mercato azionario ma soprattutto quello obbligazionario. Domani, che cosa deve dire il Consiglio europeo secondo lei? Allora, direi che le domande, diciamo, le aree di intervento ovviamente sono tre, partendo da quello più importante che è la nuova struttura, comunque le modifiche legate all'IFSF, la Fondo speranza, Salva Stati, lo ricordiamo, sì. La speranza del mercato è quella che venga ingrandito, venga autorizzato, permette la possibilità di metterlo a leva, e quello di cui si sta parlando ultimamente è la possibilità che venga utilizzato per assicurare le emissioni obbligazionarie, quindi passare dal taglio che era stato annunciato quest'estate di 440, probabilmente sfondare il muro del trilione di sia di 1.000 miliardi di euro, con la possibilità di assicurare probabilmente attorno al 20% quelle che sono le emissioni correnti. Quello sarebbe la cosa, direi, più importante. L'altra cosa di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni è la possibilità che l'IMF entri. Le chiedo la gentilezza di tradurci tutti i termini in italiano, quindi il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale. Grazie. Intervenga al fianco del Fondo di Stabilità, quindi dando un po' più di prestigio a questo esercizio, e anche lì si parla di due o tre versioni diverse di potenziale collaborazione del Fondo Monetario. Addirittura si arriva all'opportunità, quella più interessante, che sarebbe quella di dare in delega la gestione di questo fondo direttamente al Fondo Monetario. Penso abbastanza improbabile che si arrivi a questo tipo di accordo così velocemente, però potrebbe infatti essere. Diciamo che domani la prova del 9 è fondamentalmente per l'Italia e per pochi altri punti. Allora, abbiamo qualche difficoltà con questo collegamento telefonico, quindi adesso dottor Pasta, il mio assistente Marco Lombardo, la richiama per vedere se riusciamo a mettere in piedi un collegamento di maggior qualità. Intanto Carlo da Treviso fa la battuta dell'anno, perché a proposito delle risate di Sarkozy che dicevamo prima, lui dice non sono sarcastiche ma sarcosastiche, quindi veramente fenomenale. Carlo, grazie, che ci diverte un po' lei. Alessandro Capuano, il mercato obbligazionario cosa si aspetta dal vertice di domani, e secondo lei, almeno da quello che abbiamo potuto leggere fino a questo momento dai giornali, ci sono ancora delle ore che ci separano appunto a questo vertice del Consiglio europeo, è sufficiente quanto ha predisposto il nostro governo per rassicurare Angela Merkel e Sarkozy domani, oppure dovranno presentarsi appunto con la definitiva riforma delle pensioni come ci hanno chiesto abbastanza esplicitamente in questo fine settimana? Ma al momento sembra improbabile che si arrivi con un accordo sulle pensioni, anche se è quella la chiave di volta, perché di tutti le possibili alternative, i 12 condoni, in realtà la manovra più incisiva, la misura che effettivamente creerà un gettito importante è quella sulle pensioni, e va considerato che anche da un punto di vista di standard europei i livelli di pensionamento italiani sono in disaccordo con quelli che sono gli standard europei. La realtà dei fatti, noi riteniamo che probabilmente il governo italiano si presenterà con una richiesta di proroga, farà pesare il fatto che 3 giorni non sono sufficienti per effettuare delle manovre così incisive. Che non si sono riusciti a portare a casa nel corso degli ultimi anni. Però secondo me la reazione del mercato non è tanto nel capire quanto poi la risposta di Sarkozy e della Merkel sarà. Cioè, se sarà una risposta dura, come a volte l'abbiamo visto con la Grecia in passato. È vero che la Grecia è in una situazione molto inferiore rispetto all'Italia quasi sudditanza, però secondo me è interessante per gli operatori capire quella che è la risposta, perché se la risposta è dura e l'Italia non prende decisioni, quello potrebbe creare seriamente delle tensioni di nuovo sullo spread e sull'obbligazionario. Abbiamo recuperato Fabrizio Pasta. Dottor Pasta, mi faccia un po' sentire qual è la qualità dell'audio adesso. Eccomi qua, meglio? Sì, molto meglio. Accidenti, perfetto. Dove stava prima? No, sto scherzando ovviamente. Senta, l'altro grande tema. Non ho ricordato agli ascoltatori che possono intervenire in diretta, come sempre. Chissà come mai oggi me ne sono dimenticata. All'800 24 00 24 ci potete anche scrivere, così come ha fatto il nostro Carlo, al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andrea ci scrive peraltro: se l'Italia non dovesse soddisfare le richieste di Germania e Francia, cosa succede? Io credo che, al di là del diktat in qualche maniera che ci è stato imposto, credo anche che molto responsabilmente questi due paesi conoscano anche le dinamiche difficili interne che si hanno quando si devono prendere decisioni in qualche maniera anche impopolari, come quella che adesso il governo italiano deve prendere. Quindi magari domani saranno anche un po' più morbidi, tolleranti. Detto questo, dottor Pasta, io immaginavo domenica, quando così pensavo a come avrebbero potuto aprire i mercati ieri, che effettivamente una situazione di tranquillità ci poteva essere sui mercati azionari, mentre immaginavo che gli investitori internazionali ci avrebbero tenuto un po' più sotto scacco sul versante dello spread. Io lo immaginavo un po' più in tensione rispetto a quello che abbiamo visto. Tutto sommato abbiamo gravitato sui 400 punti base, ma siamo leggermente al di sotto. Secondo lei anche questo così è un segnale di disponibilità da parte del mercato rispetto alle misure che il governo italiano sta prendendo? Ma io penso che, cioè, da una parte sicuramente interventi a livello Banca Centrale Europea che comunque allievano un po' di tensioni. Da un punto di vista reazione dei mercati a quello che è stato detto domenica, è stato detto da subito che ci sarebbe stato un altro intervento mercoledì. Quindi decisioni grosse da parte di investitori istituzionali, sia esteri che domestici italiani, a questo punto è stato scelto di aspettare. Aspettiamo quello che viene annunciato domani sera e poi eventualmente andiamo a implementare delle decisioni giovedì. Però ecco, non è che io ho visto nei mercati un'attività tale da giustificare una reazione a quello che era stato deciso durante il weekend. Cioè, questi tre giorni, queste tre sedute qua sono comunque abbastanza interlocutorie, certo. Infatti, continuiamo ancora con questo esercizio previsionale. Prima di andare a fare la nostra prima pausa, Alessandro Capuano, in 30 secondi rispondiamo ad Andrea con il suo pensiero: se l'Italia non dovesse soddisfare completamente le richieste di Germania e Francia, cosa succede? Vola lo spread da 500-600 punti base giovedì? No. Se la Germania e la Francia minacciano di chiudere i rubinetti della BCE, sicuramente sì, lo spread è su questi livelli, ma è un livello artificiale. Se lo confronti con i derivati sul credito, che sono quelli che usano gli istituzionali per prezzare la rischiosità dell'Italia, ICBS. Esatto. Ho evitato di usare l'inglese. Con questo abbiamo fatto amicizia, così come spread. Su quei prodotti lì l'Italia è ancora percepita come rischiosa, e su quei prodotti lì la Banca Centrale Europea non ci lavora. Certo che sarà molto divertente anche il conflitto che si genererà nelle prossime settimane se questa decisione dovesse essere presa, cioè con la Merkel e Sarkozy che vanno alla Banca Centrale Europea a dire chiudete i rubinetti, e su quella Banca Europea siederà dalle prossime settimane Mario Draghi, poveretto. Però lo so, ma si è già spogliato da un bel pezzo dal suo ruolo di italiano e ha cominciato a fare il presidente della BCE già da qualche settimana. Meglio così, comunque, segno che è davvero autorevole la figura che abbiamo inviato a Francoforte. Allora, ci fermiamo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante da farvi esprimere. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre riflessioni, le vostre domande sui temi di mercato, perché aver detto due o tre volte la parola pensioni, perché questo è il grande oggetto del conflitto politico in queste ore, come sapete bene, fra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, ha scatenato tutte le vostre considerazioni su questo argomento. Con una bella riforma delle pensioni domani, sicuramente Berlusconi al Consiglio europeo si deve presentare, perché altrimenti rischiamo non tanto risate sarcastiche da parte degli altri leader europei quanto invece di pesanti bastonate da parte del mercato. E quindi vi invito a farci delle domande sugli scenari di mercato alla luce della crisi delle ultime settimane che si è riacutizzata in particolar modo da agosto. Giornate cruciali con le riunioni appunto del Consiglio europeo, le ricette per calmare questa crisi, perché definitive per debellarla è molto difficile. E quindi è questo stamattina quello di cui stiamo parlando, non delle pensioni. Ci torneremo sicuramente su questo argomento quando avremo il pacchetto definitivo e la misura definitiva sulla crescita, per spiegarvi bene che cosa cambia per tutti voi. 800 24 00 24, vi ribadisco il numero verde per intervenire e chiacchierare stamattina con Alessandro Capuano, responsabile di Gmarkets Italia, e Fabrizio Pasta, direttore generale di UBS Italia SIM. Allora, Allora, mercati, azioni, borse. Abbiamo visto appunto un calo molto forte dall'inizio dell'anno per gli listini del vecchio continente, un calo che per la verità è quasi tutto concentrato dall'estate in avanti, dottor Pasta, mentre Wall Street viaggia addirittura in territorio positivo. Questo è il segnale evidente appunto della crisi dell'Eurozona, ma è giustificato secondo lei questo buon andamento appunto per il mercato americano? Tutto sommato anche là i problemi del debito ci sono e sono pesantissimi, la disoccupazione è altissima, i problemi appunto non mancano, eppure il mercato azionario viaggia bene. Qual è la sua opinione su questo? Il mercato americano sicuramente ha beneficiato anche di un afflusso di denari investiti che erano prima investiti anche in area europea, quindi se uno va a guardare quelli che sono proprio i flussi di investimento tra macro aree geografiche, è rimasto quello che era il sovrappeso nei mercati emergenti, ma la maggior parte delle liquidità che era investita in Europa, gli investitori l'hanno rispostata sugli Stati Uniti. Sono probabilmente un paio d'anni avanti rispetto a noi nel ciclo economico, le trimestrali ormai stanno uscendo con dei risultati interessanti, le revisioni al ribasso degli utili sono finite, direi che sono un attimo avanti rispetto all'area euro da quello che da un punto di vista dei mercati azionari. E poi sappiamo bene che comunque il listino americano è dominato da multinazionali che comunque beneficiano dei processi di urbanizzazione, dei mercati emergenti che non si sono rallentati negli ultimi tempi, quindi direi che è giustificata una outperformance relativa da parte degli Stati Uniti. Insomma anche lì sono stati più avanti e più maturi rispetto all'atteggiamento invece degli europei, che in certo qual modo, non dico che si sono lasciati mancare l'occasione delle crescite dei mercati emergenti, diciamo che non li hanno saputo cogliere in maniera adeguata. Chissà che anche questa non sia una lezione, che non riusciamo a cogliere queste opportunità. Però anche lì potrebbe essere un discorso difficile da farsi, perché c'è chi comincia a dire che il rallentamento delle crescite fortissime dei paesi emergenti che abbiamo visto negli ultimi anni, in particolar modo la Cina e l'India, potrebbero rallentare in maniera anche preoccupante. Capuano, uno scenario alle porte? Sì, è uno scenario possibile, nel senso che i ritmi di crescita che abbiamo visto negli ultimi anni difficilmente si potranno ripetere anche nei prossimi anni. Detto questo, nel momento in cui devi allocare gli investimenti, rimangono anche su questo livello di prezzo delle aree interessanti e delle aree con prospettive interessanti. Sono dei paesi molto più dinamici, dove l'ingessatura dell'economia è ancora lontana rispetto a quelli che sono i livelli dell'Europa, e di conseguenza è giusto che in termini di asset allocation rimangano un sovrappeso sull'Europa ancora e sull'America. Ancora compensano abbondantemente le decrescite in sostanza delle altre zone. Secondo lei questo discorso sulla double dip, la ricaduta in recessione, è concreto oppure ancora è uno scenario che potrebbe anche evitare di concretizzarsi? Ma è uno scenario che il mercato sconta intorno al 60% sui livelli attuali. È vero, e mi riaggancio alle parole del collega di UBS, tutta l'analisi che abbiamo fatto sulla performance dei mercati americani, che sono davanti di due anni rispetto all'Europa. Però c'è un fattore che io sto vedendo, specie dagli investitori internazionali, è che l'Europa al momento è percepita come più rischiosa rispetto ad altre aree, anche più rischiosa rispetto a paesi emergenti, perché manchiamo di un'infrastruttura politica capace di prendere decisioni in maniera veloce. Nodi che sono venuti prepotentemente al pettine in queste ultime settimane, certo. Esatto. E quindi questo ci svantaggia assolutamente notevolmente. Sì, e continueremo ad essere... benché Obama abbia i suoi problemi, il debito pubblico americano abbia i suoi problemi, c'è una persona bene o male che deve prendere le decisioni. Qui ce ne sono circa 30 e dobbiamo prendere ognuno decisioni, ognuno dei quali popolari. Peraltro deve rispondere ai propri organismi interni, alle autorità interne, ai parlamenti interni, e quindi insomma per ogni paese già la propria decisione è complicata, poi portarlo ovviamente in un altro ulteriore consesso complica ulteriormente le cose. Sentiamo un po' gli ascoltatori. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno ai suoi ascoltatori e agli ospiti in studio. Una considerazione, stavo parlando prima con i vostri collaboratori. In effetti noi abbiamo un debito pubblico che pare a 1,9 tutti i soldi, però abbiamo anche riserve auree che coprono quasi due volte il debito pubblico. Ora mi domando, io fatto direttore di banca e molte famiglie molte volte venivano in banca e dicevano: Antonio, io devo pagare la rata del mutuo, aspetta un giorno perché ho venduto un po' di oro di casa per venire in... Ora sì, io vado a considerare lo Stato italiano come una famiglia. Perché non si libera di queste riserve, Antonio, lo Stato italiano, per risistemare il debito pubblico, dice lei? Sì, se noi prendiamo solo il 10%, sarebbero il 10% o il 15%, circa 50 mila miliardi di euro che si potrebbero tranquillamente abbattere, portare il debito pubblico sotto il 103%. Come pretende l'Unione Europea. Allora, Antonio, io adesso questa sua domanda, come dire, esce un po' fuori rispetto ai temi che volevamo commentare questa mattina, quindi volevamo un po' così fare un focus sull'andamento di borse e obbligazioni, perché sono poi i temi che interessano più da vicino gli ascoltatori, che tra l'altro, anche se hanno resistito dalle turbolenze dei mercati ultimamente, comunque c'è chi ha perso molto valore, che ha chiaramente avuto molte perdite, sia sul fronte appunto dell'investimento sul mercato azionario che su quello obbligazione. Ho detto questo, questi sono scenari magari che sono un po' al di fuori della nostra portata. Adesso non so se i nostri ospiti di questa mattina vogliono commentare, perché in realtà di ricette se ne sono presentate tante, anche per esempio la vendita del patrimonio pubblico, degli immobili pubblici, appunto, che è lo stesso, però vendere in un frangente di crisi non è facile, magari questo comporta anche che i possibili acquirenti chiedano dei prezzi piuttosto svalutati, non lo so, sono scenari piuttosto complessi. Pasta, che ne pensa? Che per me il prossimo passo è comunque quello di mettersi d'accordo che un po' di sovranità bisogna purtroppo abbandonarla e quindi dobbiamo andare verso la confederazione fiscale in area euro quantomeno. E questo potrebbe comportare sicuramente delle analisi un po' più concertate su quello che si può fare per abbattere il debito pubblico. Per me iniziative legate al singolo paese avrebbero il rischio comunque di trovare un mercato non preparato. Quindi io sono più sul cioè troviamo una soluzione a livello area euro e poi si fa tutto insieme. Allora, ritorniamo un po' ai mercati finanziari. 800 24 00 24. Non so per quale motivo questa mattina state capendo tutti che parliamo di pensioni. Io non lo so, abbiamo citato questa parola due volte, ma evidentemente è quello che vi sta un po' di più preoccupando in questo momento. Cioè uno scenario di come dire, radicale riforma del trattamento previdenziale italiano che vi possa colpire. Magari c'è qualcuno che dovrebbe andare in pensione nei prossimi 2 o 3 anni e che nel giro di poco potrebbe vedere allontanato questo appuntamento, e quindi chiaramente dopo tanti anni magari in fabbrica piuttosto che su un altro lavoro uno non vede l'ora di andare a riposarsi. Allora, questa settimana, per non farci mancare niente, tra il vertice europeo di domani e dopodomani il mercato italiano va ancora in asta, il tesoro italiano va ancora in asta con degli appuntamenti piuttosto corposi. C'è sul piatto una ventina di miliardi di euro offerti agli investitori internazionali, domani c'è un'asta da 8 miliardi e mezzo di botta a 6 mesi, venerdì abbiamo altri appuntamenti per BTP a 3 e 10 anni. Allora, Capuano, apra le sue carte o legga la sua sfera di cristallo, insomma, domani che tipo di accoglienza secondo lei ci dobbiamo aspettare? Ma sull'asta bot, anche quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, sono aste legate prevalentemente al flusso di domanda e offerta della clientela retail, quindi ritengo che le decisioni che verranno prese domani dovrebbero influire relativamente poco. Su quella dei BTP già la storia cambia, perché sui BTP ci lavorano prevalentemente gli investitori istituzionali ripeto, secondo me molto la cosa importante sarà comprendere la reazione dell'Europa a un quasi certo richiesta di proroga. Fare previsioni sull'appuntamento di giovedì è impossibile. No, lo scenario è molto semplice: se l'Europa avrà una reazione dura, ci sarà uno spread, ci sarà un allargamento probabilmente dello spread e questo potrebbe portare tensioni anche sull'asta dei BTP. Se Berlusconi riuscirà a trovare un minimo di credibilità e far comprendere che effettivamente è solo una proroga tecnica, chiamiamola così, ma la riforma delle pensioni e tutte le altre riforme di cui abbiamo parlato effettivamente andranno in porto, allora penso che i rendimenti si dovrebbero mantenere più o meno su questi livelli di prezzo. Allora ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi continueremo appunto ancora un po' a monitorare i mercati, le borse delle ultime settimane. C'è anche l'altro grande tema che verrà discusso domani, anche se lì mi sembra che l'intesa ci sia, ormai sia definitiva, il tema della ricapitalizzazione delle banche, anche se non è ben chiaro quanto quelle soprattutto più esposte dovranno pagare in termini di svalutazione del proprio portafoglio investito in titoli della Grecia. Sembra ormai, come dire, assodato questo 50-60%, il 20% ce lo possiamo scordare, e per fortuna che le banche italiane non ne hanno in portafoglio tanti, pagheranno di più quelle francesi e quelle tedesche, ma questo non ha impedito comunque ancora il sorrisino sarcastico di Sarkozy nel fine settimana, e va bene così. Sentiamo un po' cosa succede sulle strade italiane. Eccoci ritrovati per l'ultima parte di Salvadanaio, dedicato un po' agli scenari di mercato, alla luce insomma delle giornate molto calde che abbiamo vissuto, sia dal punto di vista meteorologico da agosto in avanti, ma anche dal punto di vista politico, tutti i vertici europei per trovare una soluzione alla crisi dell'Eurozona. Fabrizio Pasta, UBS Italia SIM, le chiedo adesso, a prescindere insomma dalle incertezze che riguardano anche i grandi investitori che in questo momento sono molto indecisi sulle posizioni da prendere nei confronti del mercato europeo, degli Stati Uniti abbiamo commentato anche prima, mi chiedo insomma quali altre aree in questo momento è il caso di guardare con interesse per chi magari avrebbe un po' di coraggio, magari un po' di risparmio, che ha mantenuto liquido fino a questo momento in attesa di momenti migliori. Verso quali altre aree si potrebbe guardare, almeno dove state guardando voi in questo momento? Dal punto di vista azionario sicuramente, bene, abbiamo parlato prima, i mercati emergenti sono probabilmente l'area dove stare più relativamente tranquilli come sovrappeso. Io penso personalmente che se uno ha un'ottica di investimento di medio-lungo e non ha, diciamo, delle perdite mediare troppo ingenti, effettivamente l'area euro come mercato azionario inizia ad avere dei livelli interessanti di entrata. Magari società grosse, multinazionali, che pagano una cedola interessante, a questi livelli qui, in un'ottica di medio-lungo, sono dei punti d'entrata sicuramente molto interessanti. Quindi io direi, da una parte, i mercati emergenti è l'overweight classico, ma vale la pena iniziare a guardare l'area euro, sapendo che magari avremo davanti un paio di mesi ancora di volatilità, però in ottica medio-lungo potrebbe essere un momento interessante per entrare. Sì, effettivamente ci sono delle quotazioni che sono per molti estremamente appetitose, che tra l'altro non è detto che abbiano raggiunto i minimi, potrebbe per qualche settore magari esserci ancora qualche giornata di difficoltà, come per quello bancario. Io lo so che dottor Pasta è in palese conflitto di interessi, ma le chiedo un po' una sensazione rispetto anche a questa questione delle svalutazioni pesanti che le banche europee, molte big bancarie appunto europee, dovranno fare, perché devono praticamente cancellare tutto il loro investimento effettuato in Grecia. E quello è un argomento interessante, perché se guardate i giornali ogni giorno si parla di spostare questa asticella che era stata fissata al 21%, al 50%, adesso si parla del 60%, si parla di 100 e più miliardi di euro di bisogno di nuovo capitale per le banche europee, su un settore che capitalizza a memoria 300 miliardi al momento, quelle banche europee, vuol dire una diluzione fortissima per quelli che sono gli investitori sul settore bancario. Il settore bancario quindi rimarrà, penso, per molto tempo un settore da trading, dove sarà molto difficile fare investimenti così di medio termine fondamentali, e dove bisognerà un po' seguire il calendario degli aumenti di capitale, degli annunci, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un settore dove io suggerirei l'investitore retail andare a posizionarsi al momento, però è sicuramente il settore dove c'è più interesse in questa giornata. E devo essere sincero, le trimestrali che stanno uscendo, oggi è iniziata un po' in Europa, ma nelle ultime due settimane... Con una banca a caso, peraltro. Esattamente, due oggi, non solo sì, noi, ma c'era anche Deutsche Bank. Sì, sì, è vero. Siamo usciti tutte e due con delle trimestrali che sono state abbastanza prese bene dal mercato, siamo tutte e due positivi come titolo. E le banche americane, che sono uscite settimana scorsa, pur uscendo con dei numeri brutti, la reazione del mercato non è stata pessima. Quindi è scontato che ci siano dei problemi, non lo consiglierei come investimento in medio lungo. Vi è toccata pure la maxi frode il mese scorso. Comunque chiudiamo subito la parentesi, andiamo alle valute, Alessandro Capuano, che so che è un tema che anche per come dire attitudine professionale è un tema che le piace molto. L'euro sul dollaro 1,3953, 1,38, 1,40, flirta insomma con questi livelli, ma mi sembra che tutto sommato rispetto ai cataclismi delle ultime giornate, ci sono state delle giornate molto complesse con degli spread incontrollabili, tutto sommato la valuta sul dollaro abbia tenuto o no? Sì, sì, no, tutto sommato il mercato rimane ancora su livelli alti. Secondo noi riteniamo che l'euro, visto tutto lo scenario macroeconomico e le prospettive di crescita dell'Europa, a nostro avviso rimane sopravvalutato rispetto al dollaro, perché addirittura. Beh, secondo noi uno dei metodi più semplici per uscire da questa crisi sarà quello di stampare moneta, che è quello che hanno fatto gli Stati Uniti e che hanno indebolito il dollaro, quello che ha fatto la sterlina, ha indebolito la sterlina. Non vedo grosse prospettive se non, ed è in realtà quello che sta facendo la BCE con il sostegno sullo spread sui titoli di Stato italiani, quindi se effettivamente si va per un programma di immissione di liquidità molto importante, prima o poi questi scenari si dovranno riflettere inevitabilmente sulle quotazioni. E secondo lei andiamo incontro entro poche settimane anche ad una riduzione del saggio ufficiale di sconto nell'Eurozona? Adesso siamo all'1,5%. Draghi, il suo primo intervento sarà in questo senso, secondo lei anche prima della fine dell'anno? Ma potrebbe. Sono molti mutui che le stanno facendo questa domanda. Beh, potrebbe. In realtà gli spread sui mutui già si sono adeguati a tutt'altri parametri. Secondo me la strada, non ritengo che il taglio di 50 basis point possa veramente cambiare qualcosa. Secondo me quello che può cambiare molto sul mercato sono quei programmi di quantitative easing come li abbiamo visti negli Stati Uniti e in Inghilterra. E quelli, cioè gli acquisti di titoli di Stato, sì, del mercato domestico. Stampo soldi per acquistare soldi per acquistare titoli di Stato. Poi hanno fatto anche la famigerata Operation Twist negli Stati Uniti, ma non ci ritorniamo perché sono complessità veramente che in questo momento non ci serve tornare a spiegare. Maria da Milano, rapidissima, buongiorno. Ma vi siete scatenati adesso? Prima 300 buongiorno. Telefonate tutte sulle pensioni, adesso mi presentate il vostro portafoglio di investimenti. Maria, esatto. Ci dica. Buongiorno, senta, io ho investito 100.000 euro in Dexia Crediop con scadenza 2012. Allora Maria, ferma lì. Su Dexia Crediop abbiamo avuto il direttore finanziario della società la settimana scorsa, questa mattina i nostri due ospiti non possono parlare di questo argomento che è piuttosto specifico. Detto questo, il direttore finanziario magari le rispondiamo poi in privato, ne abbiamo parlato, la banca è stata nazionalizzata dal governo belga con la collaborazione appunto del Lussemburgo e del governo francese, per cui al momento gli obbligazionisti italiani, che comunque hanno una situazione diversa rispetto alla questione belga, sono tutelati, salvaguardati, perché la banca è solvibile, non ci sono problemi. I titoli sono stati estremamente volatili per questa crisi, per cui avrete notato appunto nel vostro patrimonio delle perdite in certi momenti anche abbastanza preoccupanti. Quindi Maria, se non le dispiace, noi questa domanda la vorremmo appunto mettere da parte. Nel frattempo arriva Pietro con la sigla finale, per cui non riesco a dire più niente. C'era un ascoltatore che voleva chiedere come reagirebbe ad un'eventuale caduta di governo la borsa, non so se ci potrebbero essere le bollicine, un bel po' di brindisi da parte di molti, ma ho la sensazione che potrebbe essere così. Capuano, annuisce? Sì, sono d'accordo, è quello che abbiamo visto con la Spagna. Sì, ma infatti poi a prescindere da tutte proprio. Benissimo, grazie ad Alessandro Capuano per essere stato con noi, grazie a Fabrizio Pasta, buona giornata. Grazie Pasta, a presto, noi torniamo domani, buona giornata a tutti.